cercai vino, cercai la tua ombra cade, desolato e lontano, a mio modo, dentro il suo caos, caos, caos. Oggi mi sento strano, sei stata te. Oggi mi sento strano, sei stata te. Oggi mi sento strano, sei stata te. Anche se poi la notte era tua, anche se poi ti voglio bene. La festa è terminata. Ponetemi sul rogo, rassegnato e vivo, perché ho trovato musica e vino a mio modo dentro il tuo caos. A mio modo dentro il tuo caos. Sento caos, caos. Sei stata te. Oggi mi sento strano. Sei stata te. Oggi mi sento strano. Sei stata te. Oggi mi sento strano. La notte sei stata te. Anche se poi la notte voglio bene. Anche se poi solo una canzone. Le mie labbra cercherai, bagnate di follia, la mia musica troverai, a tuo modo dentro il mio caos, a tuo modo dentro il mio caos, caos, caos. Oggi mi sento strano, sei stata te. Oggi mi sento strano, sei stata te. Oggi mi sento strano, sei stata te. Anche se poi la notte era tua, anche se poi ti voglio bene, ti voglio bene.